attenzione, canale 10, cambio. Hola. Attenzione 10. C'è qualcuno sul 10, cambio. Hola. Una 1, 2, 3, prova, cambio. Prove tecniche di trasmissione. Hola. Hola, attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Hola. Hola. Attenzione, binario 10, cambio. No está ninguno. Buenas tardes, mi hermano. Buenas tardes, so solo quello, non so altre parole già. Eppure sono vicini. È facile, dovrebbe essere facile parlare con lo spagnolo. Sì, già è comprensibile, Io già lo capisco, quasi tutto, capisco quello che dico. Parlare è un po' difficile, nel senso che se non studi non puoi parlarlo. Devi saperlo magari con la S finale, no? Tutte le parole così dici. Attentos, mi hermanos. Sì. Pensa che l'altra sera volevo salutare due spagnoli in FM. Arrivavano anche forti. E per dire saluti dall'Italia, io credo si dicesse saludos dalla Italia, invece era, ho controllato il traduttore, saludos desde Italia, saludos desde Italia, capito? Desde è scritto così. K. E infatti non è che uno se lo studia non è che può saperlo precisamente. Ieri ti ho aspettato sul 23, ti risultati in cosa? Sul 10 alfa. No, sul 10, non alfa, 10 normale. No, sai cos'è? Gli devo dire una cosa di un microfono, poi gli ho chiesto una cosa di un baracchino, poi una parola tira l'altra, una prova tira l'altra e... è passata tutta la serata, dai. Vabbè, comunque eravate in compagnia, c'erano tante persone, ho sentito parlare di antenne, appunto di canale pesca, eccetera, chi preferisce la fibra di vetro, chi preferisce sempre le antenne in alluminio, eccetera. Vabbè. Io l'ho voluta provare, Marco, se mai le provi mai saprei come vanno. E se poi va male prendo i soldi e me ne compro un'altra, quello non c'è nessun problema. Non è quello il problema, capito? E cosa ti stavo dicendo? Ma quel microfono quando me lo dai? Ah, lo togli quell'eco, cioè, se no ti faccio il buco sulla cassetta. Questo non si può togliere, questo è automatico, entra con l'eco. E io ti faccio un buco sulla cassetta grande, con quegli affari rotondi, cioè presenti, sì, quelli che fanno, quelli che hanno le tazze, no? Come i denti. Dai, questo è leggero, l'eco non è tantissimo. Almeno ti metti l'antenna a centro tetto già, una volta fatto il buco ci metti l'antenna. Ciao, Gianfla. Ciao. Ma io ti ho usato la tazza tipo bicchiere, no? Più larga del previsto. Gianfranco vuole sempre comandare frequenza, stacca l'eco, fai quello, fai l'altro, No, è comandare che fa la grossa. E chi è che comanda qua? Non può comandare nessuno. Però io è per te così, a Marco poverino lo fa andare tranquillo a fare colazione e non stanco con le orecchie lunghe. Stanotte, cioè stamattina dovevo portare mamma dal dentista, no? Per verificare un po' la dentiera, no? Punti di attrito, no? Insomma, dovevamo essere lì a mezzogiorno e ci siamo arrivati, però io alle 6:30 ero ancora sveglio, con gli occhi che erano due fari, eppure mi sono impillolato di brutto per dormire, niente, al suo fatto. Per carità, un incubo sta diventando e no, sta diventando veramente un problema per me. Vai già. Ma ancora l'operazione all'H non se la fa? No. Perché sai cos'è? Teme anche, poi si sta risalendo stasera Covid, l'avevano anche chiamata, ma lei teme e dice vado a operarmi per una cosa e ne esco, se ne esco col Covid pure. Aspettiamo che si calmino le acque, ci sarà di nuovo, non lo lo so, speriamo di no. E dice, ho due hamburger sul fuoco, se me li fate bruciare vi faccio ad hamburger. Dai, un attimino che controllo. Sempre ma niente, sì, avanti già fra. Io devo andare su 5 secondi il QTH piccolino, poi ritorno. Non ti ho capito bene, hai detto che ogni 5 secondi devi andare, dove? No, ho detto che sto andando un attimino, 5 secondi, nel QTH piccolino, sto tornando subito. Ecco, adesso ho parlato, sì, sì. Va bene, vai pure, che problema c'è? Cucci. Ehi, mi sa che tu non sei andato solo a controllare, sei andato pure a magna. No, ma breve, brevissimo, perché l'altra volta veramente è troppo tardi. No, c'ho due cose sul fuoco. Uno è un piatto a base di pasta, gnocchi, e l'altro sono hamburger fatti come li fa mamma, tipo la pizzaiola, no? Io li preferisco cerotti arrostiti, ma sono buoni anche col sugo, un po' le spezie, eccetera. Io penso di farmi un provino di marmo, va, per essere leggero. No, io mi sono fatto una bella mangiata di peperoni oggi. Beata te. A me piacciono, però poi mi fa malare. No, io li digerisco tranquillamente, li mangio anche di notte io, non mi fanno nulla. Tu sei fortunata la sua. Anche a me piacerebbe mangiarli, però non mi fido. A proposito Marco, un aggiornamento in positivo, sempre su questo apparecchio che sto usando, c'ha il microfono e l'alimentazione a 5 volt, quindi sto mettendo il microfono esterno, cosa che io ho fatto, se vuoi te lo faccio sentire dopo. Ah, io faccelo sentire, dai. Non c'è solo Marco, ci sono anch'io qua. Come ieri Marco era interessato a questo apparecchio, ho detto Marco per dirle che c'era una cosa in più anche. Comunque guarda, adesso questo è il suo originale, no? Adesso ci attacco l'altro, non so se sia meglio o peggio, però comunque ci sta. Perché stiamo scherzando già. Gianfranco ne sa due strisce, e poi ve ne dico una di un microfono che mi sta piacendo. Puoi girare per tutta la casa col microfono, cioè il baracchino rimane qua, il microfono se lo porti dove vuoi, il gabinetto, in cucina, dappertutto, è una figata. Ma senza filo? Senza filo, credo che sia Bluetooth fino a un raggio di 30 metri, tipo 100 metri all'aperto o 30 metri all'aperto, non mi ricordo. Comunque, qua massimo 6 metri da una parte, 6 dall'altra, voglia, dentro casa. È tipo un dual mic, però è fatto apposta per i president. Non puoi usarlo su tutti gli apparati. No, no, è fatta apposta per il presidente, quello, no? Quello che hai visto. Però è carino, si chiama Liberty Mic, e fa da microfono e da altoparlante. Quindi tu fai al gabinetto, non, ti chiamano, sei in cucina, posso parlare dalla cucina, ricevono in cucina attraverso questo mic. Basta mettere al posto del microfono questo mini cavetto, cioè corto corto, c'è il trasmettitore, dai. C'è quel micro circuitino che trasmette e riceve al microfono, dai. E come microfoni per cantare, dai, per presentare, eccetera. Sì, sì, ho capito. Ma l'apparato c'ha il Bluetooth, questo apparato che compra? No, l'apparato no, però c'ha l'alimentazione, cioè la presa microfonica è predisposta per fornire sia l'alimentazione sia tutto microfono, uscita, non so come sia già, non ho studiato bene, però è carino, carino, bisogna vedere poi se esce bene di radio, ma essendo al condensatore io, è un DECT, lo sai, DECT, cioè non è roba analogica, è come i cordless digitali, non lo puoi nemmeno ascoltare, credo. Poi non lo so se sia criptato. Gianfra, niente ne sai. Scusate che vado al fornello urgentemente. Avanti, break. Ehi, ciao Lupo Grigio, ben sentito, dove sei? KK, dai. Buonasera anche a te. Riccardino ti ha chiamato? KK, dai. E ha voluto il numero di telefono da me, dai, glielo ho dato io il numero. Potevo? Ok, dai. E macchina uscendo stai con l'antenna? Gianni, la tabella! Ma nessuno ci fa vedere già. C'è nessuno? Claudio, ci sono io con il Lupo Grigio. Io il Lupo Grigio non lo sento, sento solo a te. Vabbè, io già lo sento. KK. Ancora non sono a questi livelli. C'era anche Gianfranco e Marco Condor. Sì, vabbè, ma io non ho sentito nessuno. Cosa vuol dire non sia a questi livelli? Nessuno ti sta dicendo che sia a nessun livello. Io ho detto che non sento nessuno e non arriva. Cosa vuoi ti dire se non arrivi? Non certo dipende da me, dipende da lui. A te arriva perché è vicino a te. Qua non sale il suo segnale. Capito? Non hai compreso, no. Fammi dare l'azzurra, non so che si rivedi, no. Ancora su Q. No, già praticamente il Lupo Grigio c'ha l'antenna attaccata alla caldaia, con la base magnetica. È quella che gli ho dato io, però c'erano dei momenti che usciva meglio. Non lo so dove la mettevi quando uscivi meglio, Lupo Grigio, di radio uscivi meglio prima. Ho capito, dai, li attacchi quelli col filo. Ma è uguale, secondo me è uguale, dai, sia da una parte che dall'altra, io lo attacco indifferentemente, sia da una parte che dall'altra va sempre bene, anzi è più comodo da sopra, perché da sotto viene male. No, non era Riccardino, avanti chi era? Luca, tu sì? No. Vabbè. Gianfranco. Ciao Nicola, buona serata. Ciao Claudio, buona serata. Ho la bocca impegnata, fa anche rima. Secondo me non fai la bocca impegnata. Sarà strano che non c'è la bocca impegnata. Vabbè già, io non la sento a Nicola, quindi parla tu, io mi sposto un altro canale, dai. Luca, se ci sei, canale 23. Ah vabbè dai, Luca, buona cresce greca. Avanti, Lupo Grigio. Qua sta arrivando bene come Santiago. Però la radio mi sembra un po' più bassa, non lo so. Mi arrivava più forte prima di radio. Aspetta. Magari anche il volume, prova. Dipendeva da me, c'è il volume basso. Non c'è problema, già vai bene. Marco. Finita di mangiare. No, appena iniziato. Io piano devo fare, mi devo gustare la roba. Oh, basta un minuto, porca miseria, un minuto in più. E nonostante il gas basso, ogni tanto ti scappa un po', ti si asciuga un po' la roba. Comunque, vabbè. E Gianfranco c'è ancora? Io non ho ascoltato ancora quel microfonino che mi ha detto lui esterno. Lo sta preparando. Ascolti, è andato alla Lidl a vedere quella roba, che cosa c'era? Sì, allora io sono andato tardi, sono andato che era l'una. E lo scaffale vuoto, lo scaffale del pulsosimetro era vuoto, se li hanno sbranati come prevedevo, causa psicosi da Covid. Vabbè, ma quello lì ti misura solo cosa delle nell'ossigeno che c'è nel sangue, cos'è che ti misura? La saturazione d'ossigeno, però perché al Covid? Cioè, con quell'affarino già ti accorgi, se sta calando troppo, allora vuol dire c'è qualcosa che non va. Cioè, prima ancora di accusare i sintomi di affanno, se ne accorgi con l'aggeggino. Peccato, 19,99, era una cosa che comunque io volevo da tempo. Per usi futuri, tocchiamoci le palle. Niente, se li sono sbranati. Ho chiesto anche alla commessa se ne avevano in deposito, dice no, tutti esposti, tutti mangiati. Dice non me l'aspettavo, ha detto la commessa, invece ho detto io me l'aspettavo invece, bisognava andare alle nobili, vabbè, pazienza amico, non è che. Ah, c'è anche quell'altro, quello che c'è di fronte alla centrale del latte, puoi andare lì, magari lo trovi Marco. trovi, perché con questo tantam che c'è in rete dei pulsosimetri è diventato un oggetto di culto. Poi secondo me qualcuno se ne compra una ventina a 19 euro, poi li rivende su eBay al doppio del prezzo, se non peggio. Cose già viste. Riprendi Nicola. Basso. Basso, Santiago 7 qua. Ma sei in macchina interrogativo? 9.15 adesso, siamo in 27, pensa in UHF, lì è terribile, è millimetrica la differenza. Tonico, me la dai quella base magnetica che c'è lì e te la do un po' più stretta io, che mi devo mettere l'antenna più lunga, non riesce a arrivarmi questo cavolo di base magnetica. Avete parlato in due, Gianni, rifai la domanda. Gli ho detto a Nicola, se mi dà quella base magnetica che c'ha lui, e io gli do quella più stretta, perché devo comprare un'antenna di 2 metri e non riesco a farmela arrivare questa base magnetica, non riesce a arrivarmi a Fusaro. Pronto? Mamma mia, mamma di turchi. Non l'ha digerita. Ehi, a Lupo Gli. Allora io mi devo comprare un'antenna da 2 metri e ci vuole la base magnetica, quella che c'è tu. Per quella tua basta quella più stretta. Ho detto, se tu mi dai quella io ti compro quella più stretta, nuova, e la piazziamo lì. Problemi non ce n'è. È fatta apposta. Allora quella più stretta era per quell'antenna lì, quella più larga era per quell'antenna da 2 metri. Solo che io ho messo quella perché avevo quella, mi hai capito? Eia, sì, non c'è problema per quello. Perché non sai cosa non arriva? La cuffietta, quella per non graffiare la macchina, la magnetica c'è ma non c'è la cuffietta. Adesso lo chiamo, dai, prima di smontarne quella lì. Lo chiamo a vedere se mi è arrivata, perché qua è una cosa, mi deve cambiare un'antenna che non andava bene, se no mi prendo quella piccola come ce l'hai tu e buonanotte, e non ci sono problemi. E cambia. Due segnali in più, da. Kia. Lo senti, Gianfra? Non molto bene. Non riesco a capire quello che dice, ma ho pensato che fosse lui. Io mi sono dovuto allontanare perché è arrivato il corriere e le stavo dando il sacco da seguire. Sento che parla, ma non capisco quello che dice. Kappa, dai. Ah, non c'è problema. Adesso vedo, Nico, se arriva non facciamo nulla, dai. Se arriva non ti faccio toccare quella lì, se no vabbè, mi sta bene così, dai. Ti ringrazio per il momento. Avanti, Marco. Sta girando di hamburger. Si sta facendo un overdose di hamburger, Marco. Sempre roba leggera. Ascolta, com'è questa qua? Ti ho collegato a quell'apparecchietto che ti dicevo, quello piccolino, il microfono da tavolo. Non so se va bene. Ehi, già va bene. Prova a alzare la radio a vedere, si può alzare. No, questi non sono microfoni che puoi regolare, capito? Mi posso avvicinare, che ero molto lontano. Non so se sia meglio o peggio, vedi un po'. Adesso è più presente, Gianfra. Comunque non ci credevo che potesse fare, invece vedi, riesce a alimentare anche il microfono, perché è senza batteria, no? Va bene, meglio così. Mi dispiace che Nicola non riesca a sentirlo, mannaggia. Cos'è con quell'antenna lì al primo piano, no? Sì, è quell'antenna magnetica che l'ho venduto io. Va benissimo sulla macchina, ma lì è chiuso, capito, Gianfra? È chiuso come, cioè, tutti i palazzi davanti. Faccio un video, Gianfra. Ti dicevo che qualcosa di più. Vabbè, che poi col portatile in realtà sono 2-3 watt, non è che c'ha di più, almeno avere una radio che dia qualche batterello in più. Gianfra, quel microfono cos'è? Quell'esterno adesso? Sì, Marco, dunque, è quello che utilizzo su tutte le altre radio. Io da tavolo ho solo una marca, no? Sono quelli di 508 che vanno non bene di più. Hanno fatto anche complimenti in HS, sicuro. E ho provato a attaccarla col piccolino, come ti dicevo. Sarebbe per andare. tanto vogliono. Eia, naturalmente modulazione mantiene sempre un po' di toni bassi, in FM sarà migliore come abbiamo già constatato. Hai detto V508, ma tipo Avair, hanno un bel di nomi quei mic. Sì, però aspetta che avevo anche sotto la rilevazione per un'altra marca. Guarda se è cambiato qualcosa, se no sono un po' anche l'altro tasto. Ah, siamo lì. Ecco, ho montato anche l'altro, vediamo un po' se è cambiato qualcosa. Perché la posizione SSD, FM, e poi fatto il con fatto film, così. Io l'ho fatto per il film, vediamo un po' com'è. Riprendi Gianni, fai girare per Nicola. Ehi, dai, avanti Nicola, vai. No, stavano vedendo questo strumento in offerta, $19.90 da Lidl. Praticamente è lo strumento che serve per misurare l'ossigeno nel sangue, dai. Ed è quello che praticamente adesso va, perché riesce a capire prima che tu stia male, che si stia abbassando l'ossigeno e che potresti avere qualcosa di strano. Sì, si danno venduti tutti, ma c'è Lidl anche di fronte alla centrale del latte, lì ce n'è un altro di Lidl, magari lì c'è, perché è un bel grande come negozio. Va bene, fai pure, io ti sento sempre. K. Vabbè Gianfra, non ho sentito molte variazioni, però io non ho l'orecchio clinico. Comunque va bene, l'importante è che si possa mettere un qualcosa, no? Poi sia questo o altro, giusto per giocare. Gianfra, gazzicata da Lupo Grigio, aspetta. Lupo Grigio, sei più basso, mettila da parte e attacca l'altra. Capo, avanti Gianfra, scusa, l'hai pestata. Perché questa volta non l'ho sentito, anche perché questo è qualcosa automatico, lo scelto automatico. Dove riprendersi un apparecchietto come questo, cavolo, che è piccolissimo, anche più piccolo del portatile, e la dà più watt, almeno lo sentiamo tutti. Quanto costa poco, 50 euro. Il problema Gianfra non è di watt, il problema è che lui è in una zona chiusa e dovrebbe avere un'antenna sul tetto, il che lui non li va perché ha paura che abbia problemi col condominio, eccetera eccetera, e vuole trovare un'antenna che possa mettere nel terrazzo che sia performante, però è un po' difficile che sia così, perché lui è anche in basso, fosse stato all'ultimo piano gli avrei detto fallo. Infatti quello è il problema. Sì, perché poi lui è un po' circondato da palazzi più alti, ho capito. Cioè anche mettendo una boomerang in terrazzino, sarebbe sempre come dentro un buco, ho capito già. E allora? Se no ce l'abbiamo un apparato monogatto, eccetera, eccetera, eccetera, che vi posso dare. Io gliel'ho detto, ce ne ho uno in più, se lo vuole glielo vedo. K. È fermo, adesso bisogna che lo metta in moto, perché è fermo nella credenza già da un po' di tempo. Là. È 13.8 è la tensione della macchina, ma va bene per gli apparati, è da 12 a 13.8, dai. Li abbiamo sempre messi in macchina, non c'è problema. L'interessante è che tu rifai l'attacco dalla batteria invece che dall'accendisigari, direttamente dalla batteria e riporti il filo all'interno, capito? Lo metti in fissa e buonanotte. Sì, ti ho capito. Ma no, pensavo che avessi usato sempre la batteria del portatile. Adesso non ci stavo pensando che era dimezzato il portatile. Sembrava un microfonino. E riscaldano perché sono portatile, è normale. Anche il mio riscalda. No, normale sì che scaldi, ma non deve essere più caldo di tanto, ma un po' deve scaldare, se è acceso sta funzionando, come tutte le apparecchiature scalda. Sì, sì, sì, ma è una bella zona, Piazza dei Segni è una zona buona, io andavo lì a fare gli ex, anzi, anche più su, io andavo alle Querce, c'era il parcheggio delle Querce e mi mettevo lì, era fenomenale quel posto, sino a Plattamona, come l'ho sentito a me. Sì, io sono arrivato sino a Plattamona, ma sono passato dalla Budimudi, non dalla 131, dalla Budimudi. Ma penso che anche, anzi, la 131 è più aperta della Budimudi. E la facciamo, non c'è nessun problema. Avanti, Marco. Deia, no, volevo dire, qualcosa mi è passato di mente. Vattela a ricordare, cos'era, microfonia, antenne... Niente, non mi sovviene, dai. Aspetta che chiamo a Fusaro un attimino, dove sei arrivata con la roba. Ehi, mamma mia, però da Fusaro già, sempre tempi biblici, è una cosa allucinante. È una cosa allucinante. Cioè, basta comprare dai negozi ufficiali, i grandi negozi, FLQ, Media Globe, Elettronica e tanti altri, Am Radio Shop con i suoi prezzi gonfiati, però... Non sono siti truffa, capito? C'è anche MPX elettronica affidabile, capito? Non stai comprando da chissà dove, stai comprando dall'Italia, ti danno tutto scontrino oppure risulta fiscale. Vediamo se c'è Gianfranco ancora. Sì, ci sono. Ma la data del pulsimetro, perché me la sono chiesto, però costa 19 euro, 20 euro praticamente, quello di Lidl, se non sbaglio, giusto? Sì, sono andato oggi quello dietro lo stadio, attaccato allo stadio lì di Piazza dei Segni, Sbranati. Ho guardato per caso negli scaffali a fianco se qualcuno era rotolato oppure caduto sotto, niente, non ce n'era uno, perché poi prima non gliene fregava niente la gente, adesso che c'è la storia del Covid, tutti se lo stanno prendendo per tenersi d'occhio l'ossigenazione. Io lo volevo anche perché io c'ho sempre da anni e anni un po' di fiatone, un po' di dispnea ogni tanto, soprattutto quando faccio scalini o salite, e così la volevo per usi futuri, e anche, non dico Covid, tocchiamo il ferro, eccolo qua, ok, e quindi comunque se sparisce da uno sparisce anche dagli altri Lidl, perché cioè, la gente adesso, anzi prima non se ne trovavano, c'era stato un punto che erano spariti dalla circolazione, se li erano comprati tutti. Ma non fa niente, perché in farmacia poi te lo paghi 30, 40 euro, forse anche 50. Vabbè, ti dicono, ma in farmacia è più preciso, e capirai, guarda, ci saranno differenze abissali, non credo proprio. Nicola, riprendi. Probabilmente sì, ma a quale prezzo? Cioè, quella è roba medicale che più che altro li trovi in farmacia, però a caro prezzo. E GBC è come la farmacia, è come prezzi, vero Gianfra? Sì, sì. Purtroppo noi siamo ragazzi sempre a comprare a fuori, perché qua non conviene decisamente. Comunque stavo guardando, te lo mandano anche... c'è anche su eBay, no? Costa anche di meno, 15 euro, selezione gratis, però devo guardare da dove arriva, vediamo un po', da Vitale, da Potenza, tanto sono tutti uguali, sono anch'io, va bene, non è che studi di farmacia poi magari sono difficili, tutto lì. Va bene, la prova di questo l'ho fatta, adesso me ne faccio sull'altro, così almeno con un po' di fortuna sento anche Nicola. Eia. Che poi l'autosquelce altro non è che uno squelce fisso di un valore che metti tu, lì è anche regolabile in quello piccolino. cioè non è uno squelce automatico intelligente, tipo che c'è il QRM1 ti toglie solo il QRM1, se c'è il QRM5 ti toglie solo il QRM. Lì è un valore fisso, per esempio in molti apparati tutto ciò che è più basso dal 7 te lo chiude, e lì il valore credo che sia fisso anche. No, è regolabile, in alcuni apparati è anche regolabile, non in tutti però. Quindi alla fine è come mettere lo squelce a un valore predeterminato, finisce lì. Vabbè, il comodo c'è che è il tastino spesso sui mic, sull'apparecchio. Cioè io di solito uso lo squelce normale, no? Proprio per togliere il minimo indispensabile. Poi se sale il QRM, certe volte per motori elettrici, no, questa roba che c'è in zona, metti l'autosquelce istantaneo, te lo toglie, non devi stare con la manopola a cercare il punto di silenziamento. Hai cambiato apparato? Vediamo. Sì, certo, adesso sì. Vediamo un po' se riesco a sentire Nicola. Nicola, mi ricevi? Nicola, scusa, Nicola, lo senti Gianfranco? No, quello della Lemno. Io, loro c'hanno quelle con la filettatura da avvitare l'antenna sopra. Quelle della Lem non le hanno. Vabbè, comunque non c'è problema, Nico, aspetto che arrivi, dai. Ti sto telefonando ma non rispondono. Kappa, dai, vediamo se riesco a farmela arrivare meglio, così non sta a smontare la tua, eccetera, capito? Io adesso ti ricevo bene, ti sento bene, ma magari verso casa sei più diretto, capito? Accidenti, fosse stato all'ultimo sarebbe stato un gioco da ragazzi, anche dal terrazzo potevi sollevare l'antenna. Perché c'è palacco. Ma in televisione? Anch'io. Io sto usando O Mobile e l'operatore virtuale di Vodafone e il ripetitore è qui, 30 metri. Quindi il segnale è sempre a fondo scala qua. Comunque vedo che ha migliorato anche Iliad, per la cronaca. Iliad, dopo questi anni di 2 anni di coso, ha migliorato. Cioè prende anche in casa dove prima non prendeva. Però la velocità di O-Mobile è allucinante. Cioè Iliad viaggia, che ne so, 8, 10, 20 quando ti va bene, ma O-Mobile è sempre a 60 kilobit per secondo. O kilobyte, aspetta, mi sto confondendo. Con Speed Test l'applicazione, Gianfra, vieni mi incontro, kilobit o kilobyte? Un attimino che mi sto confondendo. Ma di norma dovrebbe essere megabyte. Comunque, io ho l'idea e devo dire che lo provo adatta un po' dappertutto, perché sto fuori anche, perché mi serve come connettività, e devo dire che va bene. Ha migliorato e migliorerà in maniera consistente, perché piano piano si sta sganciando dalla Wind e quindi sta mettendo tutti i ripetitori e sono quasi tutti in... metterà anche sotto il 5G, diventerà leader del 5G. Quanto si paga con l'IAD? Ma più che quello che si paga è quello che si risparmia in termini di seccatura. Io ne ho tre, due mie e un'altra l'ho fatta da poco da mio fratello, perché lavora insomma, si ha pagato una ricarica da 50 euro. Così no, non so sapere perché e per quando. L'aveva fatta una settimana prima, vanno a controllare e c'è un 6 euro. E voglia protestare, sono dei banditi. Iliad invece 7 euro, praticamente 8 euro, dai, 7,99, l'offerta che c'è da un paio d'anni. E ancora non l'ha ritoccata. Chi l'ha fatta prima addirittura costava molto meno. E non ti rompono le scatole, bloccano tutto, non ci sono servizi, non c'è niente, e la copertura è più che ragionevole. Ma io avendo la wifi che ho in casa, nel telefono di casa, non incide nulla, posso mettere via e funziona lo stesso la wifi della Vodafone. non ho capito, il concetto che volevo esprimere, perché cosa c'entra il tutto, cosa c'è innanzitutto se a Sassari, quindi dovresti avere la fibra, sì. Io ho la fibra di Vodafone, praticamente c'entra, perché quando io sono in casa uso la wifi. Io sto facendo la domanda, se io cambio e metto l'IA col modem della Vodafone, mi dà lo stesso wifi o no? No, allora dunque sono due cose diverse. Io allora c'ho una cosa è sul telefonino la trasmissione dati, che quella la prende dalla rete telefonica, quindi Iliad, Vodafone, un'altra cosa è quando metti il wifi e quello ti colleghi alla tua DSL, qualunque essa sia, che sia in fibra, che sia classica o con altri sistemi. Sono due cose separate, sono due tipi di connessione separate. Ok, ma è quello che volevo sapere, se mi potevo collegare a quello Vodafone, è quello lì che volevo sapere. Vabbè dai, basta mettere il numerino che c'è nel modem, come ho fatto per la Vodafone. Ma Gianni, a te Iliad, cioè tu la volevi usare con un modem casalingo, cioè non da mettere nel telefono. Sì, quello casalingo sto parlando, quando io sono a casa non uso connessione dati, uso quello che è la wifi. Ma tu questo wifi lo usi anche per computer tipo Windows? Sì. No, perché a conti fatti io potrei togliermi anche la linea telefonica a casa, usare l'hotspot del cellulare, indipendentemente dalla scheda che metto nel cellulare, usare l'hotspot, condividere la connessione, usare il computer Windows attraverso la linea mobile. E viaggia che è un bijou. Va bene. Allora, io avevo la tariffa Iliad, quella primaria, 5,99 al mese, 30 giga. Invece questo home mobile prima era tipo 30 giga avevo prima, e poi l'ho aumentato a 50, spendendo 1 o 2 euro in più al mese l'ho aumentato a 50, perché finivo i giga, perché quando ti guardi roba YouTube a 1080p, caspita se si rimangia i dati. Ma questo home mobile dove l'hai fatto? Da internet oppure c'è qualche posto dove lo fanno? Allora, credo che possa richiederla anche via posta, via edicola, però io sono andato in via Lomberto, angolo via Bellieni, lì in prossimità c'è un negozio Vodafone. Gli ho detto che volevo la scheda o mobile da tot giga, mi pare era 6,99 prima, no? Naturalmente hanno cercato di convincermi in tutti i modi a farmi Vodafone, però quello prende i soldi dalla carta di credito, e gli ho detto voglio quello, voglio o mobile. Ho detto peraltro è una cosa che sto valutando nel tempo, non so se lo terrò, quindi preferisco avere una cosa che mi carico il tabacchino, capito? Non ti prende i soldi dal tabacchino, non ti fa sorprese. Tu quando vuoi caricarla vai al tabacchino e gli dici, che ne so, 5-10 euro di carica in base al credito residuo che hai, e non ci sono altri costi, capito? Riprendi Nicola. Sì, allora, c'è scritto OHO mobile, HO.mobile, sì, O mobile, è l'operatore virtuale di Vodafone, praticamente è Vodafone, usa i ripetitori Vodafone, è una eccellente velocità di download, comunque hai ragione Gianfra, megabit, sì, se 59-60 megabit al secondo, anche in upload se sono vicino al ponte. Poi vabbè, tutto virtuale, perché poi vai in un sito, vai su Google, vai su coso che è preso d'assalto da milioni di utenti, e quindi alla fine questa velocità ipotetica è solo fittizia, dai. No, forse Nicola ti ha parlato. Aspetta, ti ho parlato in due, Gianfra, aspetta un attimo Nicola. Allora, scritto, allora, hotel Oscar.mobile, hotel H e Hotel, sì, sì, Hotel, Oscar.mobile, Ho, pronunciato con la H, Ho Mobile, Ho Mobile. E confermo. No, non lo conoscevo, la verità, non l'ho mai sentito. Però credo che siano tutte cose minori, sempre legate a Wind, presumo, Wind si collega sempre con i punti che hanno poco segnale alle volte. Come si chiama? Wind 3. Gianfranco, hai mai sentito tu questo Very Mobile, un nuovo operatore, credo virtuale, no? Sì, però se leggi bene anche il modus operandi di questi signori, fanno prezzi bassi, ma c'è una grossa differenza con gli altri. Ilian innanzitutto è un operatore a tutti gli effetti, quindi ti dà le garanzie dal grande operatore. HO è una branca di virtuale, come hai detto, di Omnis, di Vodafone. E Vodafone ovviamente per quell'esigenza di banda, quando le fa le piace, perché è previsto, le può segare la velocità. Quindi tu non te ne accorgi perché sei vicinissimo ovviamente. Però se poi ti allontani ti scopri che non c'è più connessione o che è lentissima di colpo, e quello è praticamente quando si crea, quando Vodafone diciamo c'è una necessità di più banda, per i tuoi istinti te li togli a te. Ma questo mi sembra logico, e questi sono gli accordi che c'hanno, ma lo fa anche Tim e gli altri. Quindi e tutto è stato fatto per fare concorrenza a Iliad, ma finché loro non eliminano i corsi di servizi occulti, stanno fregando un casino di gente. E quello è, tant'è vero che si prendono anche delle multe, non indifferenti, ma evidentemente il guadagno è molto più consistente di quanto siano le sanzioni. Sui Iliad sono 50 giga e io fino adesso non sono mai riuscito a consumarli. Sì, sì, è vero, Iliad è un operatore vero e proprio come TIM, come Vodafone, come Wind, eccetera. Invece quello è operatore virtuale, come Kena Mobile e di TIM, lavora sui ponti TIM, naturalmente anche lì, come dice Gianfranco, ci saranno clienti di classe A e di classe B, cioè se hanno, giustamente daranno la preferenza a chi è Vodafone vero e proprio, no? Se c'è da, poi per servizi importanti diroteranno larghezze di banda superiori per chi paga di più. A dire la tutta, dai. Gianni, riprendi. Nicola, riprendi. E dammi il tempo di parlare al microfono. Eia, vabbè, io sono video, mangio video su YouTube, soprattutto roba radio, vabbè, inutile a dirlo. E comunque se non è YouTube, è YouPorn e tutti gli altri, eccetera. Fa la cacciola. Fu caccio. Ecco. Registrato. Vabbè, facciamo entrare il break, c'è stato un break, avanti. Sì, buonasera a tutti. Nicola, Roberto da questa parte, saluto a Gianni, Nicola che era tanto che non lo sentivo, Marco e Gianfranco, mi pare non ci sia nessun altro. Ricordatevi che se ci manca qualcuno. Ehi, ci siamo tutti qua, Roberto. Ciao, buonasera, ben sentito anche a te, anche tu. Un po' di tempo che non ti si sentiva. Mi ha fatto piacere essere rientrato. Ehi, ok, sono entrato, abbiamo fatto una bella chiacchierata prima con Marco e poi con Gianfranco, siamo trattenuti, abbiamo parlato di cose tecniche ed è stato molto interessante. Di cosa state parlando di bello? Senti un attimino, telefonia? Sì, telefonia adesso di telefonia, prima stavano parlando di microfoni eccetera eccetera, adesso un po' siamo andati sulla telefonia perché Vodafone, malgrado lo prende da tutte le parti, ma stanno diventando un po' ladruncoli, stanno rubando soldi così. Vuol dire a me, io sono, la prima si chiamava Omnitel e poi sono passato a Vodafone, fatto solo per questioni di ricopertura e busta, non l'avrei mandata a cadere da 50 anni. C'è una scheda particolare internazionale, magari risparmio qualcosa di lì. Mi hanno regalato un anno di coso di 50 giga al mese gratuitamente, infatti non so perché, forse perché sono mangiato troppi soldi e mi hanno regalato un anno di traffico gratuito e basta. E solo per quello lo tengo Vodafone, se no non conviene assolutamente, perché c'è molto di meglio come coso, come costi, qualità costo. Sì, è vero. Stavo dicendo che anche Iliad si sta migliorando molto. Vabbè, Iliad è abbinato a 3, quindi 3, sta iniziando a mettere qualche ponte lui indipendente, dai, ma non arrivano alla copertura di coso, c'è sempre Vodafone prima e vicino c'è TIM. Gli altri sono molto molto distanziati come copertura, se ti sposti appena appena non becchi più niente. Sì, è vero, TIM e Vodafone sono le migliori. Non è detto, è tra poco la situazione cambia. Un attimo, allora, mia zia di Olmedo è entrata da poco nel mondo degli smartphone, no? Prima usava un telefono a tasti, tutto lì. E siccome non sapeva che operatore scegliere, abbiamo visto che nella casa di Olmedo, dove sta lei, O Mobile, che poi sarebbe Vodafone, non prendeva, proprio segnale zero, navigava a fatica, proprio in quel punto particolare di Olmedo. Allora le abbiamo messo la scheda Iliad mia per provare, di lusso, infatti ha scelto Iliad. E per le esigenze sue dice che vola il computer, lo usa anche come modem, no, per il computer Windows. Chi rilancio? Gianfranco, vai. Quindi volevo dire che a zone, c'è certe zone non c'è trippa per gatti, dai. Ma guarda, io del 4G ad esempio ne faccio un uso prevalentemente veicolare, perché a casa c'ho l'internet, mi è sufficiente, quindi anche dal telefono riesco tranquillamente a gestire, quando sono in macchina, la sicurezza di casa, tutto il sistema di videosorveglianza, non so problemi. E Iliad, secondo, non so se entro il 22, il 2022, tutti i suoi ponti saranno in 5G, e tra l'altro saranno anche, diventerà la più grossa in Italia praticamente, perché sta facendo investimenti a gogo, e anche quando c'era il coronavirus in pieno loro stavano piazzando punti. Tanto è vero che anche a casa io ho visto che non mi esce più Wind, ma Iliad, proprio come fornitore di servizio. Piano piano la Wind stanno lasciando le celle, perché sono troppo vecchie, anche quelle Vodafone e TIM non stanno facendo gli investimenti, quindi tra poco anche lì ci sarà una situazione di vecchiaia, se non si sveglia. Mentre Iliad c'ha punti di ultimissima generazione, sì. Perché li vuole proprio sbaraccare questi truffaldini. Comunque ci voleva un po' di ventata di aria fresca con Iliad, perché ha costretto almeno Vodafone e TIM a scendere a patti, perché prima ti diceva guarda, o è così, o ti piace oppure vai da TIM, e TIM ti dice o ti piace o vai da così, ed eri un po', non è che abbiamo molta scelta se volevi usare, e lì insomma come è arrivato Iliad con quei prezzacci hanno dovuto fare gli operatori virtuali e scendere a patti, diciamo, dai, vai Robè. Sì, è vero, infatti Kena, per cercare cosa, se c'è un cliente di Iliad ti fa dei prezzi a 4,99€, te la va a 70 giga, adesso addirittura ho visto danno anche 100 giga con 7,99€, lo stesso quello HO di coso di Vodafone, la stessa cosa, se sei cliente Post Telecom o coso o Iliad ti dà prezzi allucinanti, però a attualmente come servizio, diciamo, come costo, costo e quantità di cose, il migliore di tutti è il coso, di, non parliamo di copertura, quello piena di, che c'è dalla team, ti dà un costo molto basso e poi non ti scala, cioè se ti rimangono 2 euro dal mese precedente te li dà in bonus per il mese successivo, al contrario di tutti gli altri. Prego, avanti. Allora, amico, prima di chiudere una cosa veloce, mi ha chiamato Riccardino, ti stava cercando, stava cercando il tuo numero, io non ce l'ho purtroppo, ho detto chiedi un po' in giro in frequenza, ti dovrà dire qualcosa, non so se qualcuno qua ce l'ha per darglielo, tipo Marco, tipo come si chiama, tipo Gianni, se ce l'hanno loro, ho detto fai riferimento a loro, io non ne ho purtroppo. Ok, non so se ti abbia trovato, se no magari gli dico entrare qua in frequenza, Riccardo, gli mando un messaggio. Te l'ho dato io, Roberto. Sì, assolutamente, no, qua in frequenza è bene non danne, anche se c'è la persona più onesta del mondo, meglio lasciar perdere, queste cose si danno in privato, dai, tramite Gianni, eventualmente se dovesse avere necessità qualcuno, sappiamo che ce l'ha Gianni. Ok, e riprendi tu Gianfranco, a te Mike. Te l'ho dato io a Riccardino, Roberto. Ho capito già. Sì. E beh, Gianfra. No, pensavo che stesse parlando di cola ancora. Tutto lì, lo saluto, se ho capito, mi sembra di capire cosa sta chiudendo. Perché oggi stranamente non riesco a sentirlo proprio, ha un segnale più basso rispetto alle altre volte, giù. E niente, lo stavano dicendo, non lo ricordo più. Vabbè. Comunque l'idea dell'ho provato un po' da tutte le parti, per me va bene. Poi sai cos'è? Se quelli sono francesi, anche se non sono molto simpatici a volte noi francesi, perché sono un po' guascuni, però nella terra loro se qualcuno combina qualcosa lo bastonano, sono anche molto, molto maneschi. Noi italiani invece parliamo, poi vabbè, ma rimando con Tim, e vabbè, rimando con Vodafone, capito? Siamo gli ultimi in ordine a essere arrivati a cambiare praticamente gestore dopo anni di monopolio di quei tre ladroni, tutto lì. Di là invece la mentalità, se sgarri e ci fu dal commercio, noi in Italia qua ci troviamo sempre col bacchione invece, perché siamo troppo buoni come consumatori. Io ripeto, tengo Vodafone soltanto per la copertura, perché io vado molto col camper, vado fuori all'estero qualche volta e purtroppo questi gestori, quelli team e cose del genere, anche se c'è il roaming, però non è la stessa cosa. Io mi devo immergere sotto la scrivania, perché mi sei guastata anche la tastiera, non me ne va bene una questa settimana. Vabbè, riprendi Marco. Sì, vabbè, Nicola avrà già chiuso, comunque lo saluto se ancora l'ascolto e sentiamo le prossime. Sì, stare fuori adesso comincia a fare freschino, caspita, finalmente, e del caldo ne avevo le tasche piene. Comunque, tuttora, con la scheda Iliad ci sono stati sporadici casi dove io telefono a qualcuno, sento la voce dell'interlocutore, ma l'interlocutore non sente me con Iliad, oppure viceversa, chiamavo o mi chiamavano, loro sentivano la mia voce ma io non sentivo loro. Solo con Iliad me lo fa questa cosettina sporadica, però ancora non è perfetto, diciamo, dai. A me l'ha fatta anche con Vodafone, Marco. Lo fa con tutti, dipende dalla cellula, se satura in quel momento, da tante situazioni, lo fa con tutti, non c'entra niente di altro. Però caspita, con Omobile credo che non mi sia mai capitato, almeno che invece con Iliad c'è, cioè per il poco che la sto usando, perché la metto giusto per non, ogni tanto la carico ogni 8 mesi per non rischiare di farla scadere. Comunque ha migliorato come rispetto a prima. Certe volte lavorava con pochissimi kilobyte al secondo o kilobit, poi quando avrai i suoi punti non ne parliamo, sarà un bijou. Forse nel 2049 avremo i punti Iliad. Gianfra, vai. No, molto prima, perché ho detto che li sta mettendo anche nonostante le cose del coronavirus, loro stavano sempre lavorando. In molte parti d'Italia c'è la copertura totale già. faccio. Ma d'altronde parlavo di Iliad, ma Iliad è grossa, ha preso la Francia, poi c'ha molti paesi africani, poi non ricordo anche dove, cioè è grossa veramente, una multinazionale. Ok, quanto è brutta la portiera, non riesco a raccappare due sedili sotto la scrivania, mannaggia. Vabbè, riprendi Gianni, faccio un altro tentativo in apnea. Allora, ho aperto finalmente il microfono del Midland, no, dell'Intec 150, e contrariamente a quanto credevo è a condensatore. A condensatore. Mi chiedo se mettendo uno dinamico possa avere problemi. Non lo so. D'altronde c'è chi è che vende un microfono normale non amplificato a condensatore? Che io sappia Midland e Lafayette, tutti li vendono a capsula 500 ohm. Non saprei. Gianni, doppio room, niente, robe. Marco, oh, ti sento leggermente alternato al sotto, non so se c'è l'alimentatore o che cosa. Prova un po'. Sto tirando i cavi qua del mic, non vorrei che... No, ma sbaglio, sto facendo gioco. Spero non sia grave la cosa. Controllate l'alimentazione, ma com'è, stabile, fissa o la regolabile con l'alimentatore? Che molte volte mai non se ne accorge, arriva sopra l'alimentazione e inizia a ronzare un po' l'apparato. Non è forte, si sente in sottofondo, però siccome tu esci perfettamente pulito, adesso leggermente si sente. No, l'ho messo 13.8 fisso, c'è il selettore, no, in modo da regolarlo oppure metterlo fisso. Aspetta, quindi no. Due colpi. Vediamo se cambia qualcosa. No, c'è ancora sotto, non è fortissimo, però c'è. Ma prova a orientare il microfono, passarlo lontano dai cavi di alimentazione o metterci qualcosa sopra, perché molte volte basta appoggiarci qualcosa sopra il baracchino, è un po' uno schermo, qualcosa, e ti attenua questo rientro. O mettere una massa tra l'alimentatore e il baracchino, passare una ferrita nel cavo di alimentazione, tante cose ci sono, basta provare. Siccome non te lo faceva mai, lo sto notando adesso. Eia, andiamo col microfono, no, il microfono già è bello, non sfiora nessun cavo elettrico, nulla. E l'alimentatore sarà, poi proverò l'altro alimentatore, quello nuovo più piccolo però, dai. Magari è l'alimentatore, spero sia l'alimentatore, dai, che non stia partendo qualche cosa al microfono, se no ne devo comprare due anziché uno. Ma è sovradimensionato per le cose, prestazioni dell'apparecchio, l'alimentatore? È da 30 ampere questo, 30 ampere, ipotetici, no? E l'altro è da 7, quello piccolo è da 7, però il bello è che non ha ventola, è completamente silenzioso, non senti ventola, né ronzio, né tanto, nulla. Io, ok, sono migliori. Come il ceppo che ho io, sono sovradimensionati, non hanno bisogno di vendere. Questo è un 60 ampere, ma teoricamente ne può dare quasi 120, per come è costruito, perché ci sono dei finali che stanno lavorando al 30%, per cui non scalda niente, lo puoi tenere 24 ore su 24 acceso. Mi è capitato anche di tenerlo acceso senza accorgere tutta la notte, tutto il giorno, ma non è mai rugoso, è bello, ripiega, come si dice. È costruito in modo super professionale. È bello grosso, peso a 20 kg. Se vedi i finali tu dici che cosa ne fai di tutti questi finali, eppure lo utilizzano al minimo, e per cui lo puoi tenere sempre acceso, non ha bisogno di ventole. E robetta commerciale comunque, niente di che. Vediamo se Gianni era entrato. Stavo provando a telefonare a Fusaro, ma sempre è occupato, mi dà deve essere staccato il telefono, che ne so. Forse è sola e ha staccato il telefono. Adesso vediamo se mi arriva questa cosa, deve arrivare in settimana. Ma non ti ha detto quale settimana, di che anno, di che secolo? No, questa mi ha detto che la spedivano entro questa settimana praticamente, ma oggi è già lunedì e dalla scorsa settimana che doveva arrivare. Che cosa già? Praticamente la gomma per la base magnetica. La base magnetica ce l'hanno nella fabbrica, ma non gli sono arrivati i gommini per non graffiare il tettuccio, capito? Sta aspettando quella, non quella. Siccome ho comprato già un'antenna da loro che non va bene, te la devo riportare, mi devo prendere un'altra antenna e ci vuole quella base magnetica lì grande. Ok, facciamo vedere a Gianfranco che è in pausa, non può parlare di Gianfranco. No, più che in pausa sono in apnea. Realmente ho trovato due USB, l'ho ricollegato alla tastiera.